Sura della gara all'arricchimento, capitolo 102 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 8 ayat e discesa dopo la sura 108, al-Kawthar. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e il clementissimo, la competizione nell'arricchimento vi renderà indifferenti al vostro destino ultraterreno finché visiterete il cimitero. Niente affatto, presto saprete, e poi niente affatto, presto saprete, niente affatto, se voi conosceste la realtà con la scienza della certezza inoppugnabile, voi certo vedrete l'inferno, certamente lo vedrete con l'occhio della certezza inoppugnabile, poi certamente quel giorno voi sarete chiamati a rendere conto dei piaceri che vi hanno reso dimentichi del vostro destino ultraterreno.